attesa. Matteo salta la macchia, Life Vintage. Prendo ancora spunto dal calendario per proporvi i suoni dal passato. 25 aprile del 45 l'Italia viene liberata dall'occupazione nazista e dal regime dittatoriale fascista. È un'Italia confusa e multiforme che presto diventerà repubblica. Sentiamo prima un'intervista di due giovani venete degli anni 50 e poi la leggenda del Piave, una canzone famosa che racconta la resistenza del Veneto e del Trentino nella prima grande guerra. Ma che cosa pensate del Presidente della Repubblica? È un bravo uomo. Ma che cosa significa il Presidente della Repubblica? L'Italia. Che Italia? Quale Italia? L'Italia nostra, la patria. La patria, che cos'è la patria? La madre di Tito. Per te è un gran valore essere italiano. Sì. Perché? Perché? L'idea di balli. Perché l'Italia è un bel paese e... Cosa vuol dire? Scusa, hai detto una nazione eroica, che cosa vuol dire? Che si è comportata valorosamente la prima guerra mondiale. Non so che cos'è stata la prima guerra mondiale per te. Dov'è che hai sentito parlare della prima guerra mondiale? I nonni, a scuola, i nonni. Famiglia. E che cosa ti dicevano? È stata una roba bella o una roba brutta? Bellissima, perché abbiamo vinto. Piave mormorava calma e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i panni, pacere bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gradir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il Piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il Piave rigonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va, straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, fra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia fin l'italico valore, le forte l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e tacque il Piave, si placarono le onde. Sul patio suo vincitori interi, la pace non trovò, né oppressi né stranieri. Ancora un ricordo dalla resistenza della prima guerra, dalla voce di chi c'era. Ascoltate, o popolo ignorante. Prima che cominciò a cantare, fare la spiegazione, metti in piazza. E allora spiegai il motivo della guerra. E diceva, ascoltate, o popolo ignorante, che della guerra notizia vi darò. Se tutti quanti attenzione farete, tutti quanti piangervi farò. il 29 dell'anno novello, il primo sangue italiano fu sparso, ma il 98 nell'ordine sparso diede l'assalto con gioia e valore. La replica. Canti di resistenza della seconda guerra più reperibili sono più tinti di rosso rispetto a questi. Uno per tutti, Fischia il vento, testo italiano che il brano originale, che era un canto popolare russo, Katyusha. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Testo italiano scritto da Felice Cascione nel 1943. Sentiamo l'interpretazione di Milva. Testimonianza dalla voce di chi c'era, sentiamo un partigiano cantare Festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, infura la battaglia, per conquistar la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, che festa d'aprile. Questo brano è stato inciso da Antonicelli nel 48 ed è stato redatto elaborando degli stornelli originali dei Partigiani insieme a Sergio Liberovici. 10 anni dopo, nel 1958, Sergio Liberovici diventerà una delle colonne portanti delle cantacronache, unico esempio di canzone popolare impegnata degli anni 50 italiani. La ballata del soldato Deodato, su musica sempre di Sergio Liberovici, cantata da Edmond Aldini, la canzone di un contadino morto in guerra. Era nato sfortunato di famiglia contadina, dalla madre una beghina fu educato. Lo chiamarono Adeodato perché fosse molto pio. Era il nome dello zio del curato. Fu convinto che il buon Dio benedice i gagliardetti e che i re sono perfetti. Crebbe Pio, a 20 anni andò soldato per la gloria e per il re, per il duce, a tutti e tre l'hanno fregato. Dietro il ponte, poiché quello era il nemico, lui sparò col dito piano, gli brillava sulla mano il sole antico. Il nemico cadde giù, ma improvviso su quel ponte venne scuro l'orizzonte. Così fu che con un tiro ben segnato ed un colpo forte forte abbracciò sorella morte a Deodato. Amava le stelle ma non poté vederle quella notte, ma non poté vederle quella notte. Il secondo, ancora con la musica di Sergio Liberovici, e il testo invece di Italo Calvino, cantato da Piero Buttarelli, si intitola Dove vola l'avvoltoio. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via nella limpida corrente. Ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no. Avvoltoio vola via, non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò l'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò. In questo piccolo gioiello faccio notare due cose. Uno, la strofa contro i tedeschi. L'avvoltoio andò i tedeschi e i tedeschi disse no. Avvoltoio vola via, non vogliam mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Deriva evidentemente dalla tradizione della resistenza. C'erano molte canzoni contro i tedeschi durante la seconda guerra. Sentiamo per esempio questa. O tedeschi di razza galera. O tedeschi di razza galera, gente infame, incivile, senza cuore, hanno rubato l'Italia il valore con il martirio di noi prigionieri. La seconda cosa che voglio sottolineare di Dove vola l'avvoltoio, la proiezione sul futuro, l'impostazione pacifista che si trova nei canti dei partigiani, il tema del nucleare, dello sbarco sulla luna. La mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Ricordiamo che la canzone è del 1958, cioè affronta temi che diverranno attuali 10 anni dopo, alla fine degli anni 60. Infatti verrà presentata ad un corteo della CGIL il 1 maggio del 1968. Riprendiamo questa canzone dopo la pubblicità per proiettarci negli anni 60.